Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno a tutti, bentrovati. Abbiamo oggi un ospite eccezionale che è Pietro Palella, numero uno per l'Italia di ST Microelectronics, che è una delle aziende di semiconduttori e componenti elettronici maggiori al mondo, con 7,5 miliardi di fatturato e 42.000 dipendenti. Soprattutto è l'unica, forse l'unica rimasta, italiana. Buongiorno. Buongiorno a lei. Anzi, italo-francese, perché c'è il governo francese al 13,5% e il governo italiano al 13,5% paritetico. La prima domanda che gli faccio riguarda la famosa Internet delle cose o Internet of Things. Ci può spiegare che cos'è? Ma è una ondata di innovazione molto interessante e parte dalla considerazione che a questo punto internet non è più solamente la connessione di computer, ma la connessione di cose. E cose è una definizione omnicomprensiva. Cose sono le persone, siamo noi, con l'elettronica indossabile. Cose sono le automobili, le nostre automobili che sono sempre più connesse tra di loro e all'infrastruttura per avere informazioni sul traffico. Cose sono le cose all'interno della casa e quindi per esempio gli elettrodomestici. Quindi qualunque cosa avrà addosso un chip collegato a internet. Che la connette alla rete, esattamente. Ma sarà davvero questa la realtà oppure è uno scenario futuristico? Ma la realtà sta già cominciando ad essere questa, principalmente sulla parte di elettronica consumer indossabile, ma non solo, perché tutto il discorso di connettività delle automobili sta diventando una realtà ormai, chiarissimamente. La connettività delle case in ambito domotico sta diventando una realtà. Le aspettative sono molto elevate. Siamo solo all'inizio di questa rivoluzione. E questa rivoluzione come cambia l'industria e la manifattura? Ma una delle cose connesse sono la manifattura. A questo punto la manifattura diventa elemento connesso alla rete, connesso al proprio interno, per cui acquisisce, in funzione dei dati che è in grado di scambiarsi, una flessibilità che prima non aveva, un'efficienza che prima non aveva. È la famosa manifattura 4.0 di cui si parlava. Ecco, ma qual è la differenza tra Internet delle cose e questa Industry 4.0? 4.0 è una parte di Internet delle cose, sostanzialmente. Una delle cose che viene interconnessa è la manifattura. Quindi Internet delle cose abilita la manifattura 4.0, in buona misura. E che diventa una manifattura che è in tempo reale e sempre più su misura dei desideri del cliente. Perché ogni componente addosso c'ha un chip e quindi si può dirigerli e assemblarli con maggiore facilità. Assolutamente, è la personalizzazione della manifattura. Ecco, ma la personalizzazione della manifattura, rendendola più efficiente, forse un po' magari ridurrà le opportunità di lavoro. Ma vede, da una parte indubbiamente questo significa maggiore automatizzazione della manifattura e quindi minore impiego delle persone. Dall'altra aumenta le opzioni di manifattura, ciò che prima non poteva essere manifattura perché era artigianato diventa manifattura, a questo punto è nuova occasione di occupazione. Ho capito. Ecco, voi fate microchip e componenti elettronici. Certo. Per un'azienda come la vostra, che cosa comporta questo tipo di evoluzione sia di internet sia della manifattura? Ma significa una cosa importante, nel senso che questo discorso di internet delle cose è un discorso trasversale a diversi ambiti di mercato, non più solamente ambiti di sistemi elettronici come noi eravamo abituati a interfacciare. Il mondo dell'arredamento, il mondo dell'illuminazione, il mondo della salute, per cui per noi queste sono nuove occasioni di innovazione, queste intersezioni tra la nostra tecnologia e questi nuovi mondi diventano nuove occasioni di innovazione e di conseguenza nuova occasione di manifattura. Ecco, voi siete un'azienda che più che altro fa chip e componenti elettronici per tutto quello che non è computer, perché sui computer uno si ricorda la Intel e qualcosa della AMD. Voi siete quelli delle automobili, quelli delle macchine, quelli di, insomma i chip su tutto il resto. Sì, anche se siamo anche sui computer nella parte periferica, nel senso che noi facciamo elettronica per le stampanti e per esempio per gli hard disk. Non siamo sui mainframe, non siamo sui PC, non siamo sulle motherboard. Ecco, vorrei ricordare che ST Microelectronics è un'azienda molto italiana, non solo per il 13,5% in mano al governo, che significa metà della quota di controllo col 27%, ma perché è italiana fin dalle origini. Pensate, cari ascoltatori, che uno dei fondatori fu Roberto Olivetti, sì, il figlio del mitico Adriano. Chi ha fatto grande ST Microelectronics è un personaggio storico, il catanese Pasquale Pistorio, che poi si è ritirato per limiti di età. È ancora presidente onorario? No, però lo incontro spesso. Ha 80 anni. E il capo mondiale dell'azienda che sta a Ginevra. Chi è il capo mondiale? Carlo Bozzotti, quindi la parte d'Italia è molto forte, la società ha stabilimenti produttivi ad Agrate Brianza, a Cornareto, a Marcianise, a Catania, ad Alzano, giusto? Sì, i più grossi sono Milano e Catania, sì. I più grossi sono Milano e Catania. Ecco, voi avete una sorta di modello produttivo STM che dimostra come funzioni l'interazione nello stesso luogo fra produzione, servizi, fornitori e università, giusto? Assolutamente sì. E ce ne vuole parlare, perché credo che i nostri ascoltatori interessi. Ma vede, c'è una considerazione molto banale. Per noi l'elemento fondamentale di presenza in Italia e l'elemento distintivo di valore aggiunto è l'innovazione. Partiamo da lì. L'innovazione non si può fare autonomamente. Troppi sono gli ambiti che dobbiamo indirizzare per poter pensare di poterla fare per conto nostro. Diventa quindi indispensabile interloquire col mondo dell'innovazione. Innovazione esterno a noi, il mondo della ricerca, università e centri di ricerca, e questo è il primo anello di ecosistema. Quando poi passiamo alla produzione, alla tecnologia e poi alla produzione, ovviamente abbiamo da interloquire con coloro che ci forniscono gli impianti, piuttosto che le attrezzature. E una parte di questi fornitori sono qua, sono nell'ecosistema locale, sono intorno a noi. Ecco, questa radice nel territorio è la grande forza che noi abbiamo in Italia. Ho capito. E voi siete particolarmente radicati nel territorio brianzolo, tanto che lei è anche vicepresidente di Confindustria Monza e Brianza. Che cosa comporta essere in Brianza per voi? Ma vede, la nostra presenza in Brianza è storica, siamo da qui dal 58, che è veramente tanto tempo, no? E il 58 era l'inizio dell'era dei semiconduttori, dei componenti elettronici. Certo. Bene, vuol dire avere costruito in Brianza un cumulo di conoscenza locale, che è nelle nostre persone, che è elemento distintivo. Cioè noi abbiamo costruito nel tempo, dal 58 a oggi, una conoscenza di tecnologia, di prodotto, di manufacturing, di produzione, che è assolutamente un asset fondamentale per poter eccellere poi, e poi poter poi presentarsi in maniera competitiva fuori dall'Italia e fuori dalla Brianza, ovviamente. Ho capito. Infatti voi non siete mai caduti nella tentazione di delocalizzare? Ma lo facciamo in maniera selettiva. La nostra strategia è questa: noi l'innovazione di tecnologia di prodotto la facciamo qui, principalmente qui. I prodotti innovativi con tecnologia innovativa li cominciamo a produrre qui, e quindi qui c'è innovazione e produzione. Quando i prodotti diventano maturi e sottoposti a maggiore pressione di prezzo si possono spostare, ma solo allora, e il profitto così generato viene reinvestito in innovazione. Questo è il circolo che noi attuiamo, la strategia che noi abbiamo. Questo mi sembra interessante. E in particolare ad Agrate Brianza e a Cornaredo che cosa viene prodotto? Allora, a Cornaredo la fabbrica è principalmente ad Agrate Brianza. Certo. Cornaredo è un centro di ricerca. A Agrate Brianza produciamo elettronica per l'automobile, componentistica per l'automobile e componentistica che noi chiamiamo sensoristica. Principalmente sensori di movimento, ma anche altri sensori, che è la parte più nuova della nostra produzione. Invece a Catania, che è allora, la città di Pistorio, due di Enna, comunque la Sicilia sicuramente, sì. E lì abbiamo elettronica per l'efficienza energetica, abbiamo elettronica per gli hard disk dei computer, abbiamo elettronica per applicazioni medicali, elettronica per l'illuminazione a basso consumo. Questo tipo di elettronica è concepita in tecnologia e prodotto e anche prodotta a Catania. Ecco, voi avete 42.000 dipendenti a livello mondo e 9.700 sono in Italia, sì. Quindi si può dire che in qualche modo un quarto dell'azienda in Italia. Di questi 9.700 quanti sono nella produzione? Sono 4.600 in produzione e 2.700 in innovazione. 2.700 in innovazione cosa significa? Significa tante persone, significa che noi ogni anno investiamo in innovazione 340 milioni di euro. Voi come ST Microelectronics in Italia? Italia. Però siete un po' una mosca bianca, perché tutta l'elettronica che c'era in Italia a livello di produzione e di ricerca è tutta scomparsa. Lì intorno ad Agrate c'era l'Alcatel, c'era l'IBM, c'era la Nokia, adesso passi lì, vedi un deserto e voi siete sopravvissuti. Sì. Ma lei si è fatto un'idea di perché gli altri se ne sono andati e voi siete restati? Io mi sono fatto un'idea, poi dopo non so se la mia idea sia giusta effettivamente. Le nostre radici nel territorio sono state la chiave di successo per andare nel mondo. Noi in Italia vendiamo una minima parte della nostra produzione, il mercato italiano non esiste, dei semiconduttori è molto piccolo, no? Ecco, noi abbiamo approfittato della competenza fatta crescere in Brianza per poterci presentare al mondo. Attualmente noi vendiamo sostanzialmente tutta la nostra produzione fuori dall'Italia, quasi tutta sostanzialmente, e questo è stato il passaggio fondamentale. È trarre valore dal territorio e portarlo fuori dall'Italia, perché il mercato era lì. L'abbiamo fatto già negli anni 60, abbiamo cominciato allora questa strategia e l'abbiamo portata avanti consistentemente nel tempo. Ecco, il tempo è tiranno, adesso c'è una pausa per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, restate con noi. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Fabbrica 2.4. Rieccoci insieme, stavamo parlando con l'ingegner Pietro Palella, che è il numero uno di ST Microelectronics in Italia. Ricordiamo che ST Microelectronics è una delle aziende più avanzate al mondo per i semiconduttori, cosiddetti chip e anche i componenti elettronici, e praticamente è l'unica rimasta in Italia, perché è un'azienda italo-francese, metà della quota di controllo è nelle mani del governo italiano e ci sono circa un quarto dei dipendenti, oltre al fatto che è stata fondata da Roberto Olivetti e chi l'ha resa grande è Pasquale Pistorio. Ecco, stavamo parlando del rapporto col territorio, quindi oltre ai 9.700 dipendenti diretti, voi a quanti altri date da lavorare fuori? Ma il rapporto tipico che noi abbiamo calcolato nel tempo è 1-1, se noi abbiamo 10.000 persone, 10.000 persone lavorano per noi fuori dall'ST, a diverso titolo evidentemente, fornitori piuttosto che partner in ricerca e sviluppo di diverso tipo, ma questo è il rapporto tipicamente che noi abbiamo. Ecco, ma come funziona una fabbrica di semiconduttori? Ancora vedi gli operai oppure un laboratorio? Ci racconta com'è fatta, visto che qui si chiama Fabbrica 2.4, una fabbrica di semiconduttori e componenti elettronici. Allora, intanto definire che cosa noi facciamo. Noi facciamo lavorazioni estremamente sofisticate. Faccia conto che noi lavoriamo il silicio, che è il materiale di base, a dimensioni che sono le decine di nanometri, essendo un nanometro un milionesimo di millimetro. Tanto per dare una dimensione, un globulo rosso è 8.000 nanometri. Questo dà già la dimensione della complessità della manifattura di un semiconduttore. Quindi vuol dire fabbriche estremamente avanzate in termini di impiantistica, per tenere l'ambiente pulito, ovviamente, e anche in termini di attrezzature per poter lavorare le decine di nanometri. Questo presuppone un'intensità di investimenti notevole per costruire fabbriche e presuppone personale estremamente qualificato. I nostri operatori sono tutti quanti almeno diplomati tecnici. Quindi non sono operai? No, sono operatori, non li chiamiamo operatori, ma sono diplomati tecnici. Il loro lavoro è controllare che il flusso di lavorazione sia eseguito in maniera corretta. Questo è il loro lavoro. Se lei entra, vedrà delle persone assolutamente scafandrate, cioè sono veramente coperte perché non devono inquinare l'ambiente, perché l'ambiente è pulito, che si muovono tra queste macchine estremamente sofisticate. Ecco, a proposito di operatori, mi diceva che avete fatto nel 2014 140 assunzioni? Più o meno, questi sono i numeri che annualmente noi facciamo, più o meno. E di questi quanti diplomati, quanti laureati? Ma allora, la ripartizione è sempre quella che noi abbiamo. Noi abbiamo circa il 54% di diplomati e il 38% di laureati. E questo si rivede anche nelle assunzioni, più o meno. Ecco, l'Italia è un centro di competenza mondiale per l'auto, se non vado errato. Sì. Sì. Ma voi che cosa fate per le automobili? Praticamente tutte quante le applicazioni di elettronica nell'automobile sono seguite da noi, quindi la parte di controllo motore, la parte di sicurezza che sta subendo un notevole cambiamento da sicurezza passiva a sicurezza attiva, la parte di entertainment, che è la parte che era storicamente l'autoradio, ma adesso è molto di più che non solamente l'autoradio, e più recentemente la parte di connettività della macchina con l'esterno. Lei può considerare che qualsiasi macchina al mondo abbia almeno un componente ST. Ah, e i vostri clienti principali chi sono nel mondo dell'auto? Il più importante in assoluto è Bosch, seguito da Conti e poi gli altri nel mondo. Cioè voi non vi rivolgete ai produttori di auto, ma ai produttori di componenti? Di sistemi di elettronica per l'automobile, quindi il car maker non è il nostro cliente, è colui che fa l'elettronica per l'automobile, anche se abbiamo contatti molto stretti di cooperazione anche con i car maker. Lei ha un'idea che l'internet delle cose dia in realtà una chance in più alle PMI più competitive? Può spiegare in che modo, fare anche qualche esempio? Eh sì, io sono convinto di questo, diversamente da altre ondate di innovazione che hanno coinvolto i grossi, i grandi. Ecco, internet delle cose, a patto che le tecnologie siano disponibili, tecnologie tipo quelle che rende disponibili ST, l'internet delle cose è accessibile alle piccole e medie. Faccio un esempio. Assistevo a una presentazione di alcuni start-up. C'era uno start-up che presentava un sistema di sensori sugli indumenti dei bambini, dei neonati, per trasmettere in continuo lo stato di salute del neonato. Quella è la tipica applicazione internet delle cose, e questo non è uno startup, perché a fronte di tecnologie disponibili, la sensoristica piuttosto che i microcontrollori, l'idea è quella che faceva la differenza. A questo punto le idee sono accessibili e sono possibili a tutti quanti, a prescindere dalle dimensioni, anzi molto spesso i più piccoli sono più veloci, più flessibili. Quindi a questo punto la mia opinione è che internet delle cose è una grande opportunità per il tessuto industriale italiano, fatto al 90% di piccole medie aziende. Voi siete operativi anche nella difesa? Molto marginalmente. Quindi è questo il motivo per cui non aveva senso che fosse la partecipazione fosse in Finmeccanica, perché non c'era di fatto. Molto marginalmente. Ma veramente. Qual è il primo settore vostro? Direi che in termini di mercato l'automobile il 25% è un settore molto importante per noi. E dopo? Dopodiché c'è un 25% però suddivisi tra diversi settori, che sono tipicamente la parte industriale che leggevo prima, automazione industriale e efficienza energetica, però in termini di mercato sicuramente l'automobile è la parte più importante come mercato di applicazione. Voi avete anche una collaborazione molto forte col Politecnico di Milano, no? Sì. Sì, che sì. Cosa fate col Politecnico di Milano? Ma le collaborazioni sono di due tipi. Uno, collaborazione sulla parte didattica, laddove serva e si possa, anche per formare persone e competenze che siano poi utili per l'azienda. L'altra invece di cooperazione in contratti di ricerca. Tipicamente uso la parte elettronica, sviluppo di nuove tecnologie piuttosto che nuovi dispositivi, ma per esempio nel caso della sensoristica abbiamo utilizzato le competenze meccaniche, perché è sensoristica meccanica quella che facciamo, del Politecnico per costruire microsensori meccanici, gli accelerometri, i giroscopi, che sono nello smartphone, nel tablet di ciascuno di noi. Quando ruotiamo il sistema l'immagine resta stabile, quello è un sensore meccanico. Voi avete una strategia che avete definito Life Augmented, che vuol dire sviluppare tecnologie per rendere gli oggetti sempre più intelligenti. Esatto. Al di là dei claim e dei tormentoni un po' magari pubblicitari, nella pratica che cosa vuol dire? Ma vede, aumentare intelligenza alle cose, quello che lei ha detto, è cosa molto semplice. Una macchina più sicura e di meno impatto ambientale è una macchina più intelligente, perché è più compatibile con la qualità di vita delle persone. Le ho fatto un esempio: una rete elettrica in grado di gestire le nuove sorgenti rinnovabili è una rete elettrica intelligente, di fatto la chiamano smart grid. Tutto questo è intelligenza. Un nuovo sistema di remote monitoring del paziente, che non lo costringa all'ospedalizzazione ma lo tenga nella sua vita normale tenendolo sotto controllo, è un sistema di salute intelligente. Ecco, questo è quello che per noi significa intelligenza. Ma quali sono i principali invece mercati di sbocco a livello geografico? Allora, se facciamo l'Asia nel suo complesso, è l'Asia. Intendo come Asia la Cina, Taiwan, la mainland China, cioè, Taiwan, Giappone, Corea. Questa è in questo momento la parte più importante del nostro fatturato, seguita poi dall'America e dall'Europa. Ma voi, dicevamo prima, siete una sorta di mosca bianca, perché non è rimasto più nulla. Ma questa desertificazione dell'industria che si sta verificando in Italia è un fenomeno incontrovertibile, inarrestabile, oppure potrebbero essere fatte delle politiche ancora oggi efficaci per aumentare il grado di innovazione e di penetrazione delle industrie a maggior valore aggiunto come la vostra? Allora, Ciò che è successo nel passato ha provocato purtroppo un effetto pesante in perdita di competenze. Quando le aziende se ne vanno, le persone che facevano quel lavoro si mettono a fare altri lavori e si perde competenza. L'abbiamo vissuto noi nel Vimercatese, lei citava prima Alcatel piuttosto che altro. Certo. Ora, c'è una fase di recupero in questo momento di queste competenze, aggregandola su idee nuove. Internet delle cose è per esempio una di queste idee. Quindi c'è un segnale di inversione di rotta che è estremamente interessante, e io penso che questo vada colto anche a livello di politica industriale. È fondamentale, io penso che sia un'occasione questa che noi abbiamo, che non va persa. Noi ci stiamo battendo in questa direzione, ma non tanto per un ritorno. Ecco, ma a livello di politica industriale che cosa si potrebbe fare per dare un supporto di questo tipo? Ma vede, allora, qualcosa si sta facendo e molto si può fare di più. Indubbiamente tutto ciò che è credito d'imposta sulla ricerca è fatto importante per queste aziende, non c'è niente da dire. Incrementare e incentivare i rapporti con le università di queste aziende, perché in università e in centri di ricerca c'è una grande quantità di inestimabile valore di conoscenza, in questo momento in buona misura inutilizzata. Se lei guarda i tentativi di cooperazione tra piccola azienda e università, stanno fallendo tutti. Ecco, qui si può fare molto. Da due punti di vista, mi permette di dire due cose che io ritengo importanti. Uno, incentivarle dal punto di vista economico, ma dall'altro creare competenze ingegneristiche. Faccio l'esempio del Fraunhofer in Germania. Competenze ingegneristiche che servono per tradurre la scienza in tecnologia e in prodotto, in modo tale che ci sia vera collaborazione tra università e piccola azienda. E invece adesso è tutto affidato alla buona volontà dei singoli. Perfetto, buona volontà, l'hai detto giustamente. E poi qualche altro suggerimento? Ma non ci sono altre cose particolari che servano. Io penso che già queste potrebbero essere molto importanti. Però lei trova che ci sia una sensibilità nelle istituzioni verso queste cose? Selettiva. Dipende con chi interloquisce. In alcuni casi sì, in altri casi no. A livello locale e regionale, intendo la regione Lombardia, abbiamo trovato notevole sensibilità. Se si sposta ad altri livelli, alcune volte la sensibilità è inferiore. Ho capito. E quindi lei che cosa si aspetta dai prossimi anni? In ST e nel vostro contesto? Ma allora, nel mercato, quindi nel mercato dei componenti elettronici, mi aspetto ondate di innovazione che spingano il mercato verso nuovi orizzonti. Le ho citato Internet delle cose, ce ne sono anche altre. Quale altre? Io penso che il tema fondamentale che spingerà il mercato sarà l'affrontare le sfide sociali. Glielo dico: salute, sicurezza e ambiente. Io penso che queste siano le spinte fondamentali che anche muoveranno il mercato di innovazione della microelettronica. Bene, ritengo che siano riflessioni interessanti. Purtroppo, come dico sempre, il tempo è tiranno. Ci auguriamo di averla ancora con noi in trasmissione, oppure di invitare altri esponenti di ST Microelectronics, che veramente merita. Grazie, ingegner Palelli. Grazie a lei, dottor Astor. Arrivederci. Arrivederci.